Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, il programma animalista, antispecista e vegan che racconta il mondo con gli occhi di tutti gli animali. Questa settimana vogliamo occuparci soprattutto di notizie che riguardano direttamente o indirettamente l'emergenza climatica, il problema sociale e politico più importante del momento. Gli animali e i loro habitat sono spesso al centro di simili notizie e scegliere loro come punto di vista privilegiato permette, a nostro avviso, di cogliere con maggiore chiarezza e lucidità lo stato reale delle cose. Parleremo anche di alimenti vegan, di polemiche sulla sperimentazione animale, di isole ghiacciate, di disastri atomici. E naturalmente ascolteremo, grazie a Giuseppe Coco, molta buona musica. L'emergenza climatica è la questione politica più importante di questa fase storica, ma i vari governi nazionali e così le maggiori forze politiche stentano a sintonizzarsi con questa realtà. Ci sono eccezioni. Dalla Finlandia arriva una notizia che costituisce un primo esempio di che cosa parliamo quando parliamo di politiche adeguate all'emergenza in corso. Il governo di Helsinki si è impegnato ad azzerare le emissioni di gas serra entro il 2035. Non è a quel che sembra un impegno generico, come le recenti dichiarazioni di emergenza climatica del Regno Unito e di altri paesi e città, bensì un impegno preso dal nuovo governo del socialdemocratico anti-Rinne, appena eletto e legittimato da una campagna elettorale tutta condotta sul tema del cambiamento climatico. Anche questa una cosa inconsueta. Azzerare le emissioni di gas serra entro il 2035 è un impegno titanico, e implica un cambiamento sensibile delle produzioni e anche, diciamolo pure, degli stili di vita. Non è nemmeno detto che sia possibile, ma i cittadini finlandesi sembrano al momento assecondare questo sforzo. E forse è proprio questo l'elemento che più induce all'ottimismo, o almeno a dare un'apertura di credito al premier Rinne. Vedremo come andrà a finire, ma di sicuro molte attenzioni si concentreranno sulla Finlandia nel prossimo avvenire, perché in tutto il mondo siamo alla ricerca di esempi positivi da imitare e da seguire. Suspect they could never love anyone. A proposito di esempi, di buone pratiche e di figure a cui fare riferimento, vogliamo tornare a parlare dei Goldman Prize, il cosiddetto Nobel per l'ambientalismo, il premio assegnato ogni anno a 6 personaggi che si sono distinti per iniziative di base a tutela della biodiversità, della natura, degli ecosistemi. Sono attivisti che conducono specifiche campagne e vengono premiati con somme consistenti che possono utilizzare per incrementare il loro impegno. È significativo, ci pare, che 2 dei 6 premiati del 2019 abbiano concentrato la propria azione sugli animali. Il quotidiano La Repubblica recentemente ha definito queste 2 figure di attiviste delle paladine del pianeta, dei difensori della biosfera. Una è Anna Kolovic-Lesoska, biologa macedone di 39 anni. Da 7 lotta contro la costruzione di 2 nuovi grandi impianti idroelettrici nel parco di Mavrovo, nel suo paese, la neobattezzata Macedonia del Nord. Fondatrice del centro EcoSvest, Ana, insieme con altre ONG, fin dal 2010 si è messa contro i progetti finanziati da Banca Mondiale e Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo, concentrandosi sugli effetti che gli impianti idroelettrici avrebbero avuto sulle residue possibilità di sopravvivenza delle linci dei Balcani, che ancora abitano per l'appunto nel parco del Mavrovo. Questi rari animali vivono in strette e inaccessibili gole e difficilmente potrebbero sopravvivere a un nuovo assetto del territorio. La vicenda del parco è anche indicativa della complessità delle questioni ambientali. L'energia idroelettrica è considerata energia pulita, rinnovabile, ma spesso, come in questo caso, non è sostenibile. Non per gli ecosistemi, non per gli habitat naturali degli animali selvatici. E personaggi come Anna Kolovic-Lesoska ce lo ricordano. La seconda vincitrice del premio Goldman che vogliamo segnalare ha un nome impronunciabile per noi italofoni. Si chiama grosso modo Bayar Jagal Agvansteren. Ha 50 anni, è un'insegnante mongola e nel 2007 ha fondato la Snow Leopard Conservation Foundation, che ha come scopo la salvaguardia dell'habitat dei leopardi delle nevi, che abitano nelle catene montuose della Mongolia centrale. Ne sopravvivono fra i 4.000 e i 7.000 esemplari, cioè pochissimi, e sono sottoposti a una specifica minaccia dalle attività minerarie, in particolare nell'area delle montagne di Tost, un corridoio migratorio fondamentale per questi leopardi. Bayar Jagal, coinvolgendo le comunità locali e suscitando la curiosità dei media, è riuscita prima a ottenere la nascita di un parco protetto proprio sui monti Tost e poi la revoca delle licenze minerarie concesse dalle autorità governative. Entrambi i casi, ci sembra, dimostrano almeno 2 cose. Primo, che la tutela degli animali selvatici è un aspetto cruciale della difesa del pianeta, perché la vita di questi animali è la più vicina alla verità della vita sulla Terra. Secondo, che l'impegno civile paga, ottiene risultati, indica la via da seguire. Les avalanches que l'on déclenche quand le dimanche on s'ennuie et que même l'ennui flanche en regardant tomber la pluie. On se retrousse alors les manches pour s'imprégner de jalousie. Où es-tu? Avec qui tu manges? Y a-t-il une femme qui te sourit? Est-ce qu'elle se penche vers toi quand tu lui dis que tu as tout ton dimanche, que l'on est loin de Paris, qu'avec moi et toi ça flanche, que t'as besoin d'un peu de ta vie. Mon homme est toujours dans l'adolescence et c'est ça qui me ravit. Il regarde tout. les avalanches que l'on déclenche quand le dimanche on s'ennuie. On s'ennuie et on se penche sur des doutes qui ne font pas appel, qui font que l'on déclenche des murmures qui se déguisent en cris. Le cœur n'est plus alors étanche, les pires soupçons sont même permis. Un esempio di quali siano gli effetti sul campo, nella concretezza della vita naturale, dell'emergenza climatica, arriva dalla Namibia, paese dell'Africa meridionale famoso per i suoi parchi e per gli animali selvatici che vi abitano. Ebbene, di fronte alla condizione drammatica di siccità di questo periodo, non piove in quelle zone da gennaio, il ministro dell'Ambiente ha annunciato che 1000 animali selvatici, bufali, antilopi, giraffe, elefanti, saranno messi all'asta. L'incredibile iniziativa avrebbe due motivazioni. Da un lato ridurre la pressione degli animali sulle risorse disponibili, cibo e acqua, diminuendo evidentemente la popolazione. Dall'altro raccogliere fondi per la gestione delle stesse riserve naturali. Il ministro Romeo Muyunda non ha spiegato come si svolgerà concretamente l'asta, né chi potrebbero essere i potenziali acquirenti. Si parla di parchi e riserve che potrebbero farsi avanti e organizzare il trasferimento degli animali. Ma il timore degli ambientalisti è che questi animali finiscano per diventare prede di caccia, magari per qualche safari organizzato per signori molto danarosi. In ogni caso, nella prospettiva del governo della Namibia, gli animali selvatici diventano merce utile a fronteggiare la minaccia climatica che li mette a rischio. È un paradosso. Comunque la si guardi e comunque vada a finire, anche questa è una drammatica testimonianza del tracollo ambientale, ma anche politico e morale, che incombe in tutto il mondo. Questa settimana è tornata d'attualità l'esplosione della centrale nucleare di Chernobyl, risalente al 1986, grazie a una fortunata serie TV. Fra le tante cose che questa serie mostra, ce n'è una che impressiona e non è quella più prevedibile. Il ritorno a Chernobyl si rivela particolarmente interessante proprio per l'attuale situazione sul terreno. Una fetta vastissima di territorio, tutto intorno alla centrale, è oggi disabitata. Tutte le persone che vi abitavano furono allontanate all'epoca dell'esplosione. Eppure il paesaggio attuale è di tutt'altro tipo rispetto ai paesaggi post-atomici descritti in tanti film che abbiamo visto al cinema. Quel che vediamo alla fine sembra quasi l'opposto di quelle immagini. La natura ha infatti preso il sopravvento e tutta l'area è popolata da animali selvatici che si sono riprodotti e hanno trovato nuove zone di insediamento. Sono lupi, orsi, volpi, cervi. Tutti animali che sembrano prosperare nonostante la contaminazione. Nell'area di Chernobyl le strade sono deserte, ormai sepolte sotto la vegetazione, non c'è inquinamento, non c'è più agricoltura industriale e così piante e animali hanno rapidamente preso il posto dell'uomo, dimostrando una capacità di reazione e di adattamento superiore a quella umana. Ci si domanda ora se gli animali non subiscano e perché gli effetti dell'esplosione in termini di mutazioni genetiche e di malattie mortali. In realtà è possibile che gli animali selvatici, avendo un ciclo di vita più breve rispetto agli umani, subiscano meno i danni della contaminazione. E c'è l'ipotesi che un'eventuale maggiore mortalità sia compensata, come avviene in natura, da una maggiore prolificità delle varie specie. Fatto sta che dalla Chernobyl di oggi arriva un ulteriore messaggio alle società opulente e imprudenti che hanno permesso la sciagura del 1986. Il messaggio è che sono gli animali e le piante a interpretare nel modo migliore la propria presenza sulla Terra, con un basso impatto e un'alta capacità di adattamento alle condizioni date. Le società industriali continuano a coltivare l'idea di dominio e di trasformazione continua del mondo, ma questa è una strada senza futuro. Testimonianza dei tempi che corrono arriva da una fotografia bellissima e drammatica scattata dal climatologo danese Steffen Olsen nei giorni scorsi nel nord della Groenlandia. Si vedono due slitte trainate da mute di cani, una in primo piano, un'altra in lontananza, che corrono su una lastra di ghiaccio trasformata in superficie acquitrinosa dalle eccessive temperature di questo periodo. Sembra che gli animali e le slitte corrono letteralmente sull'acqua. L'immagine è drammatica perché mostra una verità preoccupante. La Groenlandia non è più l'isola di ghiaccio di un tempo. Nella parte meridionale, da qualche anno ormai, si praticano forme di agricoltura un tempo impensabili. E nelle scorse settimane, quando Olsen ha scattato la fotografia, la temperatura in Groenlandia è salita di ben 40 gradi, sopra la media stagionale, raggiungendo i 17,3. Questi eventi, dice Olsen, devono farci riflettere. E noi aggiungiamo, ancora una volta, che dovremmo riflettere in fretta e passare subito all'azione, senza paura e pronti a cambiare molte, molte cose. Quanto credi che possa costare costruire un mattatoio, John? Non uno grande, solo un modello, per dimostrazione. Una dimostrazione di che? Una dimostrazione di quello che succede in un mattatoio, della macellazione. Ho pensato che la gente sopporta il massacro degli animali solo perché non lo vede. Non lo vede, non lo sente, non fiuta l'odore. Stai parlando di un mattatoio vero, con animali veri macellati, messi davvero a morte? Sì, vero, tutto vero. Per dimostrazione, non credo ci sia la minima possibilità di ottenere il permesso per costruire una cosa del genere, nemmeno un'ombra di possibilità, a parte il fatto che la gente non vuole che le si ricordi come arriva sul piatto ciò che mangia. C'è la questione del sangue. Quando sgozzi un animale, il sangue sgorga, il sangue è appiccicoso, impiastra tutto, attira le mosche. Nessuna autorità locale sopporterebbe fiumi di sangue in mezzo alla città. Non saranno fiumi di sangue, sarà solo un mattatoio dimostrativo. Pochi animali macellati al giorno, un bue, un maiale, una mezza dozzina di polli. Potrebbero fare un accordo con un ristorante vicino, carne fresca di macello. Lascia perdere questa idea, mamma. non ti porterà da nessuna parte. E da poco uscito una raccolta di racconti di Cozzè. Ritroviamo Elisabeth Costello e questo racconto, che si chiama Il mattatoio di vetro, è proprio uno di quelli che ha per protagonista la Costello e gli animali. Un suggerimento per una lettura sotto l'ombrellone. Mentre come brano musicale vi suggerisco Slaughterhouse, che appunto parla di mattatoi, dall'ultimo album dei Death SS. Questa settimana abbiamo parlato della sperimentazione avviata all'Università di Torino su un gruppo di 6 macachi che saranno sottoposti a un intervento al cervello di menomazione della capacità visiva al fine di condurre esami ritenuti utili nello sviluppo di cure per la malattia di Parkinson. La LAV, Lega Antivivisezione, ha vivacemente criticato la sperimentazione, raccogliendo il disagio, se non il malessere, provato da molte persone al pensiero del trattamento che questi animali subiranno. Nella puntata scorsa abbiamo intervistato Michela Kuan, la responsabile del settore sperimentazione animale per la LAV. I ricercatori torinesi hanno replicato accusando la LAV di fare disinformazione e di aver diffuso la falsa notizia di un accecamento dei macachi. La compromissione della vista, spiegano i ricercatori, sarà solo parziale e non impedirà ai macachi di condurre la loro normale vita nei laboratori. L'università spiega che tutte le procedure sono state rispettate, che il benessere degli animali è tenuto in alta considerazione e che la sperimentazione su questi primati è necessaria per il potenziale sviluppo in futuro di nuove cure. Sul sito dell'Ateneo Torinese è disponibile un testo di risposta punto per punto alle osservazioni della LAV, la quale LAV a sua volta ha immediatamente replicato. Anche in questo caso c'è un documento disponibile su internet confermando la propria avversione per una ricerca così arretrata e respingendo le minimizzazioni sulla sofferenza dei macachi. Tutti i materiali si trovano in rete e ciascuno può farsi un'idea della disputa consultandoli. Di certo, la fine dei macachi è nota. Una volta concluso l'esperimento, quale che sia il livello di compromissione della vista e quale che sia il risultato delle osservazioni e degli esperimenti, i 6 animali saranno soppressi, come da procedura di legge. Chiudiamo con una notizia che è stata rilanciata dall'associazione Essere Animali. Riguarda il mercato alimentare, che pare in evoluzione grazie alla diffusione nella società del punto di vista animalista e vegan, con conseguenze anche su ciò che le persone mangiano o non mangiano. Essere Animali, riprendendo un'inchiesta del quotidiano britannico Guardian, fa notare che molte aziende ormai comprendono come quello dei prodotti a base vegetale possa essere un buon investimento e perciò hanno lanciato marchi paralleli a quelli principali per inserirsi in questo mercato. Si tratta, osserviamo noi, di una modalità tipica dell'impresa capitalistica, abilissima ad adattare le proprie produzioni alle nicchie di mercato che si manifestano via via nella società. C'è chi guarda con sospetto questo fenomeno, proprio perché in questo modo le aziende tendono a inglobare, neutralizzare comportamenti di rottura, che perdono così la loro efficacia nell'ottica di un vero cambiamento sociale. Altri, come in questa fattispecie Essere Animali, enfatizzano il fatto che queste scelte sono l'indicatore di un cambiamento in corso. La notizia davvero interessante, dice l'associazione, è scoprire che alcune aziende stanno addirittura riconvertendo la loro intera filiera e abbandonando carne e prodotti animali. Non si tratta quindi in questi casi di una diversificazione del prodotto da parte della stessa azienda, ma di aziende che cambiano del tutto i propri prodotti. Dalla carne passano al vegetale o in certi casi alle nuove produzioni di carne da laboratorio che si stanno affacciando. Sembra essere questa in effetti la nuova frontiera. Il Guardian riferisce di un rapporto sull'alimentazione del futuro in cui si stima che nel 2040, una data tutto sommato vicina, il 60% della carne consumata non proverrà più dall'uccisione degli animali, ma sarà sostituita da prodotti a base vegetale che ne imitano le caratteristiche, oppure da carne realizzata con produzione cellulare. Se così sarà, forse dovremo aggiornare anche la nostra rubrica di cucina. Betty came by on her way, said she had a word to say about things today and fallen leaves. Said she hadn't heard the news, hadn't had the time to choose way to lose, but she believes. Gonna see the river man. Per questa settimana è tutto. Vi saluta la redazione di Restiamo Animali al completo, composta da Camilla Lattanzi, Francesca De Matteis, Roberta Marino, Zenone Sovilla, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco, Gabriele Palloni e Lorenzo Guadagnucci, che vi ha tenuto compagnia. L'appuntamento è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.